Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Hashtag Autotrasporti. Buonasera da Andrea Ferro, nuovo appuntamento con Hashtag Autotrasporti del lunedì, lo spazio di analisi e approfondimento dei temi al centro dell'attenzione del settore. Come sempre, in apertura, la rubrica del numero. 15 miliardi di euro. È la cifra che nel 2015 gli italiani spenderanno per gli acquisti online. Stasera quindi si ragiona sulla crescita da anni a doppia cifra del commercio online, dell'e-commerce. I 15 miliardi sono una cifra stimata dal consorzio Netcom. Una parte di questo giro di affari transita attraverso gli apparati mobili, cioè gli smartphone, e lo sarà sempre di più. Secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano, nel 2017 la mobile economy costituirà il 40% dell'e-commerce. Declinato nel mondo dell'autotrasporto significa che sempre più prodotti e beni acquistati online dovranno essere consegnati nelle case o negli uffici, quindi crescerà ulteriormente il numero dei mezzi che entreranno nel cuore delle città, nei centri storici. ANFIA, l'Associazione Nazionale della Filiera dell'Industria Automobilistica, ha condotto uno studio dedicato proprio alla distribuzione delle merci in ambito urbano, tracciando la strada verso soluzioni sostenibili. A condurre questo studio, Marisa Saglietto ed Elisa Boscherini. Le abbiamo intervistate. Questo studio ci dice che l'ultimo miglio va efficientato, che le città cresceranno in termini di popolazione, quindi avranno sempre più bisogno di movimentare delle merci. Queste merci dovranno essere, questo flusso di merci dovrà essere regolamentato con mezzi sempre meno inquinanti, anzi addirittura di emissione zero, viste gli obiettivi della Commissione europea, e da un lato meno inquinanti, dall'altro più sicuri, dall'altro anche organizzati in modo da decongestionare il traffico cittadino. Ecco, ci sono delle esperienze anche con lanci già avviate. Sì, la collega Marisa Saglietto citava un obiettivo comunitario. La logistica al 2030 deve produrre emissioni zero nelle città. Questo è un obiettivo che ha stabilito l'Unione Europea sia nel white paper, sul libro bianco sui trasporti, sia nei documenti che da questo sono discesi legati alla logistica urbana. Allora, questo è l'obiettivo comunitario, alcuni l'hanno dichiarato il libro dei sogni. Diciamo così, applicato sui piani nazionali e locali, si tramuta in un interesse da parte pubblica, perciò Ministero dei Trasporti da un lato e comuni, municipalità dall'altro, ma anche privata, e noi come rappresentanti dell'Associazione Nazionale della Filiera dell'Industria Automobilistica appoggiamo fortemente queste politiche, un interesse a migliorare la city logistics, la logistica urbana, anche e soprattutto tramite dei mezzi di trasporto che siano innovativi, efficienti, quanto più possibili ecologici e sicuri. E dunque dei protocolli, i primi due a livello nazionale sono stati Comune di Roma, protocollo per incentivare il rinnovo del parco veicoli commerciali leggeri fino a 6,5 tonnellate ad alimentazioni alternative Euro 5, Euro 6, metano, GPL, elettrico ed ibrido, e Comune di Torino che si è data una visione di respiro più ampio, diciamo rivedere interamente la logistica urbana e diciamo un patto con tutti gli operatori logistici che operano in ambito urbano legato appunto al miglioramento delle piazzole di sosta, degli accessi alla ZTL, del tracciamento dei veicoli, perciò una visione più olistica, più ampia, che è quella che ambiamo possano pian piano avere tutte le città. Due le notizie che in questi giorni concentrano l'attenzione del settore: l'annuncio della disdetta del contratto degli autotrasportatori da parte di Unatras e Anita a partire dal 1 gennaio 2016. In una nota è stato spiegato che l'obiettivo è giungere ad un contratto nazionale unico per i lavoratori del trasporto merci e della logistica, e poi è giunta la notizia della convocazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei rappresentanti delle associazioni di categoria. L'incontro con il ministro Graziano Del Rio avverrà la prossima settimana, martedì 23 giugno alle 17. Questa sera abbiamo in linea Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Buonasera Donati. Buonasera. Partiamo chiaramente dall'incontro fissato tra 8 giorni con il ministro Del Rio. Cosa gli direte? Per quello che riguarda gli argomenti, abbiamo purtroppo solo l'imbarazzo della scelta. Mi pare che però che al di là dei singoli temi, la questione di fondo che va posta al Ministro è quello di una riflessione attenta su questo settore che ha pagato la crisi in maniera sicuramente molto molto pesante e che è un settore che rimane decisivo, diciamo così, per la possibilità di rilancio del sistema produttivo economico italiano. E quindi questa vicenda dell'autotrasporto non può essere vista come una questione di settore, ma deve essere vista come un elemento, su cui se non si mettono le mani rischiamo di indebolire un anello fondamentale del sistema economico italiano che già è in grandissimo affanno. Dopo il piano dei porti che il governo si appresta a varare e del quale si conosce ormai il contenuto, il mondo dell'autotrasporto chiede quindi un piano organico della logistica, piano che manca ormai da molto tempo. Non c'è dubbio. Allora, ovviamente, dobbiamo evitare di ragionare, come accennavo prima, all'autotrasporto come semplicemente una nicchia, che ha i suoi problemi. Il trasporto è un anello di una catena, che riguarda la movimentazione, quindi la logistica delle merci, quindi la capacità di essere competitivi o meno di un sistema paese. Quindi noi siamo interessati ovviamente a come evolverà la riforma dei porti, a come evolverà tutto il dibattito sulla logistica e sicuramente non vogliamo che l'autotrasporto, sia veramente il vaso di goccio su cui vanno a scaricarsi tutte le inefficienze del sistema. Donati, parliamo di infrastrutture. Il caso Sicilia è il simbolo di una rete inadeguata. Non c'è dubbio, qui abbiamo un ritardo pluridecennale. Noi, come tutti sanno, fino a 40 anni fa eravamo uno dei paesi meglio dotati sotto il profilo dell'infrastrutturazione stradale. Adesso siamo un fanalino di coda a livello europeo. Quindi la vicenda siciliana è purtroppo solo un esempio, perché poi andrebbe raggiunto per esempio la vicenda calabrese, la vicenda della Cassia in Toscana, abbiamo tutta una serie di situazioni di pericoli continui, basta un'acquazzone che il sistema infrastrutturale va in tilt. Parliamo di ripresa anche nel settore dell'autotrasporto, un po' di luce si intravede in fondo al tunnel, ma l'idea è che per uscire da questa galleria ci sia ancora tanta, tanta strada da percorrere. Ci sono alcuni dati che possono essere letti anche in maniera, perlomeno in termini di inversione di tendenza, no? Se uno guarda per esempio il fatturato autostradale o altri dati, si vede qualche segnale, però io credo dobbiamo aver chiaro che l'autotrasporto era già in crisi prima della crisi, se posso usare questa frase, nel senso che c'è un modello basato su una frammentazione di imprese, su una parcellizzazione su una difficoltà a fare sistema da parte del nostro mondo imprenditoriale che è andato bene per molti decenni, anzi è stata una ricchezza, oggi risulta chiaro che non è più adeguato a competere con quello che sta succedendo in Europa. Claudio Donati, segretario generale di Assotir, grazie e buonasera. Bene, grazie a lei, arrivederci. Ed eccoci alla rubrica del trasporto particolare. Questa sera con Fabrizio Destro, titolare di un'impresa specializzata, raccontiamo il viaggio dei pesci vivi, non per mare o lungo un fiume, ma su strade ed autostrade. Trasportiamo pesce vivo praticamente, quindi il nostro scopo è di portarlo vivo a destinazione nel miglior modo possibile, quindi deve essere sano perché il 90% poi viene destinato ad allevamento, noi trasportiamo avanotti che sarebbero i bambini di pesce e quindi devono essere veramente portati molto bene. Abbiamo l'ossigeno liquido a bordo come ausilio per mantenere in vita e delle pompe che arieggiano l'acqua per scasarla di eventuali composti che si trovano e praticamente il nostro scopo è di portarlo nel miglior modo possibile a destinazione. E anche via terra i pesci hanno le loro rotte preferenziali. Ci sono varie tipologie di trasporto, vari tipi di pesce, praticamente io personalmente sono impiegato a trasportare pranzini di avanotteria, di riproduzione, principalmente dalla Francia verso la Croazia, che praticamente sono sorte parecchi allevamenti in gabbia, in mare. e questi pesci vengono riprodotti in Francia da sola notarie specializzate e poi noi abbiamo il compito di portarli questi allevamenti in mare e praticamente sono lotte che durano anche due giorni. Poi ci sono vari altri trasporti, le zoppe in Germania, anguille in giro per l'Europa dove se le chiedono e molte altre tipologie di pesce, insomma. L'importante è che sono tipologie di pesce praticamente che viene mangiato vivo come l'anguilla, la trotta che in genere viene portata sui grossisti che le stoccano in laghi vivi, in vita diciamo, e poi le usano per il loro consumo locale, ecco. Per Hashtag Autotrasporti del lunedì è tutto. I prossimi appuntamenti mercoledì intorno alle 13.40 all'interno di Effetto Giorno e il sabato alle 14. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro. Buonasera a tutti. Hashtag Autotrasporti. Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.